Vedi, adesso infatti sto. Credevo di averlo coso, credevo di averlo cambiato, invece l'ho lasciato lì che ha continuato a registrare. Allora, adesso parliamo specificamente di questo saggio in breve. Dunque, la posizione di Harawi è una posizione interessante perché oltre a tutte le cose che vi ho detto prima, Harawi in realtà è anche una scienziata, cioè è una biologa. Biologia e biotecnologia. Allora, bisogna dire che in realtà almeno una parte di questo punto di vista, di questo, diciamo, di questo approccio, diciamo pure, una buona parte del relativismo di origine femminista è collegabile almeno in parte a Foucault, e quindi questo si collega in parte con l'inizio del corso, quando ho parlato di Foucault. Perché un punto di vista femminista, cioè una critica, diciamo, radicale, quindi dei modelli di, diciamo, supremazia culturale e politica dei maschi, perché dovrebbe essere di tipo relativistico? Cioè, qual è il contributo specifico che il punto di vista femminista porta al relativismo? Diciamo, la ragione è, insomma, semplice ed è questa. Se si riconosce che lo stato di cose che esiste dentro una cultura è quello del predominio di una parte della società, in questo caso di un sesso, quello maschile sull'altro, femminile, ho cominciato male la frase, la ripercorro. In qualche maniera una operazione di dominio deve essere sempre mascherata. Anche le ideologie e le società più autoritarie, neanche il fascismo e il nazismo hanno mai dichiarato, dice no, noi vogliamo opprimere, no, anzi, dicevano, come Mussolini e Hitler, dicevano noi vogliamo realizzare il benessere comune, la società. Allo stesso modo nessuno mai tra i maschi ammetterà o proclamerà sì, vogliamo opprimere le donne e vogliamo fare in modo che soltanto il punto di vista maschile prevalga. No, diranno, diciamo, c'è sempre dietro ogni operazione di dominio di una parte su un'altra di una società, c'è sempre un'operazione di mistificazione. Il dominio verrà sempre presentato come se fosse una forma neutra, come se fosse una virgolette normale o diciamo neutra gestione della, diciamo, società. Il primo lavoro che si deve fare quando si vuole rendere esplicita una logica di dominio è quello di dichiarare la sua parzialità. si guarda che questo è un dominio. Quello che stai facendo adesso non è come tu pretendi la, diciamo, la realizzazione di una logica che pacifica tutta la società, che mette d'accordo tutti, eccetera, eccetera. No, sei tu che stai facendo qualche cosa a danno di qualche altro. Il predominio maschile dentro le società occidentali si presenta quindi non come predominio ma come un punto di vista falsamente universale. La prima operazione che bisogna fare, il primo passo che bisogna fare per combattere questo uno stato di cose del genere, quindi, è prima di tutto smascherare il preteso universalismo di questo punto di vista e mostrare la sua parzialità. Paradossalmente l'universalismo, tanto più l'universalismo diciamo culturale di tipo maschile o maschilista, è una operazione culturale che stabilisce e irrigidisce dei confini. Per esempio, il confine tra l'umano e il non umano, tra l'umano e l'animale. Abbiamo già affrontato questo tema nelle primissime lezioni, quando abbiamo visto che l'universalismo ha come premessa il discontinuismo. L'affermazione di una unicità e universalità di questo misterioso concetto chiamato natura umana presuppone che questa natura umana sia chiaramente descrivibile, chiaramente separabile da tutte le cosiddette, diciamo, nature non umane. Nel caso dei fondamenti maschilisti, allora questo che cosa vuol dire? Abbiamo detto che uno dei modi di smascherare questo, come dire, discontinuismo, questo universalismo discontinuista, era quello di mostrare che sia per operare, sia per costruire la discontinuità, cioè la linea di frattura netta tra qualche cosa e qualche altra cosa, sia per proclamarne la sua universalità, il meccanismo che si usava al fondo era sempre quello, cioè era prendere un insieme di contenuti, certo che si può descrivere una cultura, certo che c'è una natura, natura nel senso di quadro descrittivo organico, per esempio della borghesia o della nobiltà o di una classe sociale di un periodo particolare, questo è chiaramente descrivibile. Ci sono una serie di valori, di comportamenti, di punti di vista, di presupposti di che possono essere descritti. Questa è ora l'operazione che fa in genere l'universalista, è questa: prende una particolare situazione di una psiche, di un quadro psichico, di un quadro culturale di una certa epoca o di una certa frazione della società, ed è questa che viene elevata e proclamata natura umana o valori universali o la critica che si fa, dice, guarda che la natura umana non è descrivibile, come fai tu, perché è un insieme di potenzialità. non vuol dire che non siano descrivibili, che non si possa fare una descrizione specifica di comportamenti, di quadri culturali, di quadri di valori. Certo che si può fare. Tutte le culture possono essere descritte in qualche modo. Possono essere fotografate, possono essere cartografate, perché essendo la concretizzazione storica di questa generica potenzialità, è esattamente come si può fare la grammatica di una lingua. Si può fare la grammatica dell'italiano, la grammatica del francese, la grammatica dell'arabo, la grammatica dell'ebraico, la grammatica del cinese. Ci sono relazioni strutturali tra questi elementi. Non si può fare una grammatica universale, non esiste una grammatica universale, non ci sono principi universali a cui tutte le lingue obbediscono. Proprio. Cosa? Chomsky dice così, ok, ma sono cazzi di Chomsky, non sono fatti nostri. Se il massimo che uno può descrivere del linguaggio umano in linea generale è: abbiamo tutti una predisposizione, una facoltà di parlare, più in là di questo non si può andare. Esattamente, più in là di questo, più in là del proclamare che la nostra biologia è la cultura, come esseri umani, non si può andare. Non esiste una qualche tratto che sia universale e comune a tutte le culture umane. Ma ogni cultura tenterà in qualche modo, in maniera più o meno virulenta, più o meno antipatica, più o meno forte, di fare questo passaggio, cioè di identificare se stessa con l'universalità della cultura. Ripeto che questo non è un tratto tipico della cultura occidentale, in qualche maniera tutti lo fanno. Forse vi ho già ricordato, ve lo ricordo ancora, che per moltissime popolazioni primitive, molte culture primitive chiamano se stessi gli uomini. Chi siete voi? Gli uomini. Per noi sono gli Yanomami, sono i Bororo, sono quella particolare cultura. Loro diciamo gli uomini, c'è una identificazione di ogni cultura. Se la cosa si ferma qua, in genere queste, come dire, culture non traggono poi tutte le, diciamo, possibili conseguenze da questo loro approccio, e a questa a questo orgoglio, insomma, di considerarsi gli uomini, in genere accoppiano poi una relativa capacità di non solo di tollerare, ma anche di mettersi in relazione con culture diverse. In alcune altre culture, tra cui la cultura occidentale, quasi fino dai suoi inizi, insomma, quasi fino dai suoi inizi, in alcune culture, questo meccanismo si trasforma invece in un dispositivo di esclusione. Cioè, non solo noi siamo gli uomini, ma, questo è il peccato, questo è il punto sul quale, diciamo, dal relativamente bonario orgoglio culturale si passa all'universalismo. Non solo noi siamo gli uomini, ma tutti dovrebbero essere uomini. Non solo noi siamo cristiani e siamo orgogliosi di esserlo, ma tutti dovrebbero essere cristiani, e quindi tutti dovrebbero convertirsi al cristianesimo. Quindi chi non è cristiano non è semplicemente diverso da noi, è un nostro nemico, è un nostro avversario, va convertito, va combattuto. Se non si vuole convertire, va sconfitto e tendenzialmente, in ultima analisi, sterminato. la cultura maschile fa una operazione del genere. Quindi l'universalismo, e l'universalismo maschilista non fa eccezione da questo punto di vista, ha bisogno di linee di demarcazione molto nette e molto rigide, perché deve demarcare, dice l'universalista, l'umano dal non umano. In realtà deve demarcare la propria cultura dalle altre culture. Nel caso della cultura occidentale, la cultura occidentale ha fatto questa operazione. Ha identificato alcune caratteristiche, alcune regolarità, alcune costanti del modo di pensare e del modo di comportarsi, del modo di agire maschile, dei maschi nelle varie epoche, l'ha fatto diventare il fondamento dell'uomo, la cosiddetta natura umana. Nella cultura trobadorica la natura umana è la parte, diciamo, in ombra dell'autocoscienza nobiliare, dei nobili dell'epoca, con l'astuzia di guardare questo quadro culturale e comportamentale dal punto di vista del suo bordo, della sua quasi negazione, del suo limite, cioè dell'emarginato che non ha nessun potere, nessuna ricchezza, eccetera, ma ha soltanto la capacità di parlare. Ma in realtà i valori che il poeta trovadorico esalta sono quelli della nobiltà del suo tempo. Nella cultura dell'Ottocento europeo la natura umana diventa il ritratto psicologico del borghese medio, del medio capitano d'industria, con tutte le sue sfaccettature, compreso il suo amore per il bello, il suo amore per l'arte, perché più fai un lavoro di merda e più devi essere, e più devi avere una parte di te che si identifica invece con le grandi cose, con le belle cose. Nella variante leziosa e assolutamente vomitevole del cosiddetto Biedermeier, cioè dello stile, diciamo, lezioso del borghese tedesco, perché lì era, quella è, diciamo, la Germania è stata la culla. No, è stata non, diciamo, la culla, ma è stato né per la filosofia né per l'economia, non è stata la culla, le culle sono state altre, Inghilterra, Germania, eccetera, Inghilterra, Fiandre, Lombardia anche, ma la Germania, la Lombardia l'ha presa in quel posto, però c'era anche lei nel primo, però nel corso dell'Ottocento, alla metà, diciamo, dell'Ottocento, la Germania era nel continente il posto dove il capitalismo si era sviluppato in modo più diciamo veloce e soprattutto più, diciamo, potente, che era giunto a una concentrazione di forza. La stessa cosa era avvenuta per altre vie, per la filosofia. Non era nata in diciamo, Germania. Ancora nel 600, quando la filosofia moderna si stabilisce e ha alcuni centri che sono non più l'Italia, che era ancora nel secolo precedente, ma insomma l'Italia per qualcosina con Galileo c'entra pure lei, ma soprattutto la Francia e l'Inghilterra. La Germania era un posto di analfabeti, ma stava appena nascendo la cultura tedesca, era una cosa molto molto arretrata, ma tra gli ultimi decenni del Seicento e tutto il XVIII secolo, la Germania conosce uno sviluppo economico, culturale anche, rapidissimo, e all'inizio dell'Ottocento la Germania diventa la capitale della filosofia europea, come diventa il paese capitalistico più dinamico, certo non quello più grosso, imperiale, che è sempre l'Inghilterra, però dalla parte, diciamo, continentale. Bene. questi tratti particolari, caratteristici, descrivibilissimi, ma di una cultura di classe, della cultura di una classe sociale, che era il borghese, diciamo ottocentesco, diciamo tedesco, diventa il... Allora, un pensiero femminista, un pensiero e una pratica femminista devono cominciare a decostruire questo quadro, cioè devono cominciare a mettere in crisi l'identificazione di questo quadro psicologico e sociale con l'universalità della natura umana e devono, dal punto di vista del metodo, dichiarare la non esistenza o la attraversabilità o la negoziabilità delle frontiere e delle barriere. Ecco perché Donna Haraway può contrapporre la figura del cyborg, cioè la figura dell'ibrido. Il cyborg viene assunto come il simbolo teorico e pratico di qualche cosa che non accetta frontiere e barriere definitive, ma che al contrario è capace di ibridare elementi apparentemente eterogenei tra loro. È nella logica del crossing the boundaries, no? dell'attraversamento delle, come dire, frontiere e delle ibridazioni tra comportamenti, modalità e contenuti diversi che si realizza dice Haraway a pagina 43, nella cultura scientifica americana della fine del XX secolo il confine tra umano e animale è stato ripetutamente abbattuto. Le ultime spiagge di unicità o sono state inquinate o le hanno trasformate in parchi giochi. Il linguaggio, l'uso di strumenti, il comportamento sociale, gli eventi mentali non stabiliscono più in modo convincente la separazione tra umano e animale. E parecchi non sentono più il bisogno di questa separazione, anzi molta cultura femminista sostiene il piacere del legame tra l'umano e le altre creature viventi. I movimenti per i diritti degli animali non sono una negazione irrazionale della unicità umana, ma un lucido riconoscimento della possibilità di sanare il solco riprovevole sorto tra natura e cultura. Negli ultimi due secoli biologia ed evoluzionismo hanno fatto degli organi moderni un oggetto di conoscenza e contemporaneamente hanno ridotto il confine tra l'umano e l'animale a una debole traccia reinscritta nella battaglia ideologica o nelle dispute professionali tra vita e scienze sociali. In questo contesto l'insegnamento del moderno creazionismo cristiano andrebbe combattuto come si combatte la violenza sui minori. Questo è... L'operazione che tenta, secondo me, molto più ambiziosa, ma che non credo che si possa dire che riesce definitivamente a Donna Haraway in questo testo, però è quella che c'è sul terreno del linguaggio. Perché? Teorizzare o cercare di praticare, cercare addirittura di fare diventare il cyborg una pratica, no? Quindi cercare di far diventare una pratica una figura ibridata tra del materiale umano e la tecnologia, ovviamente implica misurarsi ovviamente con l'informatica, con le tecnologie informatiche che già a metà degli anni 80 cominciano, sono gli anni in cui sta nascendo la cosiddetta informatica distribuita, cioè ovviamente il computer si chiama, non c'è ancora, è appena nato il terzo computer, si sa come, no, è già nato, sta diffondendo, insomma, è nato da circa 10 anni. Però sono proprio gli anni in cui sta ripartendo la cosa, quindi è l'informatica. Ora, il problema di una ibridazione tra uomo e tecnologia dal punto di vista del computer, cioè, è, come dire, insomma, di guidarsi con una lavatrice, dove tanti tanti sono guidati, può sembrare più complicato, ma è veramente più semplice, voglio dire, è una lavatrice, no, che funziona senza cibo, generazioni precedenti. La lavatrice prima del chip non ha alcuna ambizione, non può trattare alcun diritto a linguaggio. Quindi noi siamo sicuri che in una ibridazione con una lavatrice la componente linguistica è solo nostra. No? Si potrebbe anche ibridare con una lavatrice o con una motosega, o in molti più modo ci sono, come tutti sapete, esseri umani ibridati con motosega al vostro braccio. Ibridarsi con un computer è più problematico e più rischioso, perché con un computer noi non possiamo valutare una esclusività del linguaggio. Non ce l'abbiamo solo noi il linguaggio. Quando ci mettiamo, diciamo, lui, anche lui è a suo modo una macchina linguistica come noi. Noi abbiamo il nostro linguaggio naturale, lui ha il suo codice, ha il suo linguaggio naturale. Era una coscienza poi. No, niente, non ci sì, no, va bene. Questo è il punto di arrivo. Convinci lui che non ha coscienza. Prova a vedere se ti corregge l'errore che fa. Se guarda che non hai coscienza, per favore, fatti dire a me. A volte dirgli le cose anche al computer, proprio perché non ha coscienza, può essere lunga. A volte non rimane altro che togliergli la presa della coscienza quando compito gli orecchi di gioco e quando prendi a casa. Il fatto di non avere coscienza sarà la sua debolezza, ma per certi versi anche la sua forza. Però è anche quello che ci rende problematico a noi. Perché ci rende problematico? Perché c'è questa dimensione linguistica. Allora, su questo mi sembra che Don Harrow non detti bene la cosa, non centri bene il problema. Vorrei che dirò qualcosa su questo problema nell'ultimo focus che ci sarà tra una settimana o due. Quindi per il momento diciamo, vi delineo soltanto il panorama, insomma, il paesaggio dei problemi. C'è una somiglianza, come ovvio, ma c'è anche una differenza radicale tra il nostro linguaggio e quello. Ovviamente non è tanto la somiglianza quello che è difficile il rapporto quanto la differenza. La somiglianza sta nel fatto che i linguaggi informatici hanno una doppia articolazione come la nostra, cioè da un certo punto di vista di per sé il contenuto della singola cella non vuol dire un cazzo, è solo l'insieme di funzioni logiche che lo attraversano che delinea un significato. La differenza però è più, diciamo, radicale. Ed è che il linguaggio umano è naturalmente polisemico, cioè è ambiguo, ha più significati, tollera più significati, anzi, porta con sé un grado di indeterminatezza che è quello che rende possibile però tutte le cose più, diciamo, divertenti e virgolette creative che si fanno con il linguaggio. Dalla Divina Commedia e dall'Amleto di Shakespeare e dal Mahabharata e dal non nell'elite sino al gioco di parole della pubblicità. Alcune delle pubblicità, degli advertising più efficaci si basano proprio su ambiguità, non su possibili modi di leggere una frase con due significati diversi. Tutto questo il linguaggio del computer non ce l'ha. Allora, da questo punto di vista, le possibilità di ibridazione effettiva con il computer, con questo tipo di tecnologie, devono prendere in considerazione la disponibilità del linguaggio del computer a farsi sporcare, contaminare, ambiguizzare, rendere ambiguo da parte del nostro, o la nostra disponibilità del nostro linguaggio a farsi irrigidire. Ci sarà un movimento che va da una parte all'altra o oscilla tra due estremi, la massima confusione, il massimo caos nella produzione linguistica umana, la massima chiarezza, la massima univocità di significati da parte del linguaggio informatico, o una più o meno accettabile mediazione tra le due dimensioni. Ora, la cosa però si complica perché se fosse così, uno dice, allora, prendiamo atto che c'è questo problema e troviamo una ricetta accettabile, una percentuale. In realtà, storicamente, probabilmente già nel momento in cui nascono le prime figure dell'uomo artificiale moderno, quindi forse non di Loren, ma già Frankenstein è affetto da un problema, ma sicuramente lo sono i robot di Binder e di Asimov. L'affermarsi, l'ingresso nella scena dell'immaginario di queste figure di uomini artificiali, di questo tipo, di questi robot, coincide con la nascita di una nuova scienza, che è la scienza fondata più direttamente in quegli anni, con una serie di ricerche belliche sui sistemi di autoregolazione delle armi nella Seconda Mondiale da parte degli Stati Uniti, e la cibernetica porta con sé una concezione dell'intelligenza umana che perlomeno tendenzialmente elimina proprio lo scarto e la ricchezza del linguaggio umano rispetto ai linguaggi artificiali. Cioè, detto in altri termini, uno dei presupposti culturali della cibernetica è la possibilità di descrivere l'intelligenza umana con gli stessi strumenti con i quali si descrive il funzionamento delle macchine cibernetiche. Quindi l'algoritmo, e cioè una sequenza di istruzioni eseguita passo passo, porta da una situazione A a una situazione B, il funzionamento di una macchina di Turing, insomma, di una macchina di questo tipo, viene ipotizzato come alla base anche del ragionamento umano. Se questa ipotesi si potesse confermare, certo che allora non ci sarebbe più questo problema che io prima segnalavo. perché vorrebbe dire che dietro l'apparente confusione, l'apparente ambiguità, l'apparente polisemia del linguaggio umano, c'è una base, una struttura logica che lo rende simile a problematica, come questo rende problematica simile a prima. Questa d'altra parte, questa ipotesi è quella che sta sotto la nascita della logica moderna, che probabilmente stava già dietro l'idea della logica aristotelica, ma che sicuramente da George Bull ad Otto Frege, Inghilterra, Germania, 1860-1890, quindi seconda metà dell'Ottocento, sia Bull che Frege la pensano più o meno così, cioè pensavano già che non tutta la lingua, ma la struttura logica della lingua umana fosse matematizzabile, fosse descrivibile con strutture matematiche, questa è la logica. Allora, probabilmente ci conviene, se vogliamo cercare di capire un po' meglio questa cosa qui, andare ad indagare cosa pensavano i cibernetici, che cosa pensava Wiener, che cosa pensava, e cercare di analizzare un po', di esaminare un po' questa ipotesi. L'intelligenza umana è davvero algoritmizzabile, si possono ipotizzare, magari forse oggi non siamo in grado di costruirli, ma possiamo pensare che prima o poi arriveremo a scrivere un numero di algoritmi, magari così grandi, ma tutti algoritmi, cioè cose A, B, C, D, E, cioè step by step, che messi insieme riescano a descrivere l'intelligenza umana, oppure questo è impossibile. Che questo avrà, a seconda della risposta che daremo, o della non risposta, o di quello che riusciremo a scoprire su questa cosa, questo avrà delle conseguenze anche sulla questione della ibridazione. Va bene il cyborg, ma a che punto si ferma il computer e comincia l'uomo, se l'uomo è veramente qualcosa di diverso dal computer? Dove sta come realizzo la mediazione o la rimediazione tra uomo e tra un computer? Che senso ha l'intelligenza artificiale? Quindi, le prossime due volte almeno, che spero abbiamo ancora due lezioni, parleremo di questo problema. Il dibattito sull'intelligenza artificiale, dalla cibernetica all'intelligenza artificiale, ipotesi algoritmica o no dell'intelligenza umana, perché questo avrà delle influenze sul modello di ibridazione tra uomo